i soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Allora, caro Mauro, prepariamoci a questi due giorni intensi dedicati al mondo del risparmio e dell'investimento, perché intanto domani e giovedì abbiamo Investire Informati. Allora, come noi sempre abbiamo pensato di festeggiare, dedicando la vigilia di Investire Informati, al nuovo risparmio. Sì, perché che cos'è? Nuovo risparmio è una collana che il Sole 24 Ore presenta da domani. Sono 12 fascicoli di una sessantina di pagine ciascuno che affrontano tutti i temi del risparmio. Allora, il senso è, ma ci siamo portati una delle responsabili di questa collana, che è Isabella Della Valle, che già i nostri amici che ci seguono su Facebook possono vedere e salutare. Sono parecchi, possono vederla. Anzi, lei può salutarli, brava. E perché parliamo di questa collana? Perché il tentativo nostro, come spesso facciamo a Radio 24, al Sole 24 Ore, è proprio quello di fornire gli elementi essenziali per andare a occuparsi dei propri risparmi. E infatti, allora, noi naturalmente, come diceva Mauro, non abbiamo voluto farci mancare l'occasione di tuffarci in quello che io ho ribattezzato il vademecum, no, delle informazioni finanziarie, perché intanto il ripasso è sicuramente utile. Però noi, prendendo le varie guide, non mancheremo di scegliere un argomento specifico, così come abbiamo fatto oggi. Il tema della prima guida è, Mauro, lo leggo, dai conti correnti ai PIR, sì. Quindi c'è tutto l'universo mondo degli strumenti finanziari su cui è possibile investire, anche se il conto corrente non è uno strumento di investimento, ma molti risparmiatori in realtà lo concepiscono come tale. Una però... precisazione preziosa la tua, sì, perché il senso di questa prima guida, ma poi ce lo spiegherà meglio Isabella, è proprio quello di analizzare tutti i vari strumenti che abbiamo a disposizione per collocare i nostri risparmi. Non è detto che siano strumenti di investimento, sono strumenti magari anche solo per parcheggiare dei soldi, parcheggiare della liquidità per poi utilizzarla quando se ne ha bisogno. Infatti oggi faremo un piccolo focus anche sui costi degli strumenti, sì, di investimento. Peraltro mi fa piacere ricordare anche che sabato scorso una bella inchiesta di Plus 24 ha provato a fare luce sui costi di alcune tipologie di fondi di investimento, che è uno strumento molto gettonato perché l'industria del risparmio gestito viaggia in una condizione di ottima salute, ma qualche volta abbiamo capito che l'aspetto costi non è molto ben considerato dai risparmiatori. E siccome arriva MiFID 2 a partire da gennaio, che obbligherà le società di intermediazione e i consulenti finanziari invece a comunicare con grande chiarezza quanto costano le soluzioni di investimento, allora noi cominciamo già a dare qualche prima istruzione cominciamo ai nostri ascoltatori. Esattamente, il senso è proprio quello di dare uno slancio particolare, non che non lo si faccia tutte le settimane su Plus piuttosto che ogni giovedì a Due di Denari, però dare uno slancio particolare alla alfabetizzazione finanziaria. E allora tutti i giovedì da domani con il Sole 24 Ore, 12 fascicoli dedicati al nuovo risparmio, si parlerà anche di tecnologia, si parlerà dei fondi pensione, di investire nell'arte anche, quindi tutti i vari strumenti. Investire per i figli. Però se avete domande, perché Deborah, diciamocelo, chi non ha domande? Io poi ce l'abbiamo pure noi. Ho quintali, tonnellate di domande su cosa posso fare o cosa non devo fare con i miei soldi. E allora potete innanzitutto in questa ora telefonarci, sì, 800 24 00 24, per intervenire in diretta. SMS e WhatsApp li potete indirizzare al 349 238 6666. Ma attenzione, ti sei buongiornizzato per un attimo. Potete anche scriverci un'email. Anzi, vi diamo due indirizzi questa mattina. Ben due? Sì. Proprio spendi e spandi. Oggi come se non ci fosse un domani. Mi voglio rovinare. Due di Denari, scritto a lettere D-U-E di Denari, @radio24.it, ma anche Plus, @ilsole24ore.com. Attenzione che 24 è scritto 2-4 in cifre. Perché questi due indirizzi, teneteli sempre presenti, sono anche gli indirizzi con cui poi noi seguiremo le vostre domande, le vostre richieste, e sia nella composizione di questi fascicoli, sia qui a Due di Denari, sia sul Sole 24 Ore, insomma, cercheremo di creare sempre più interattività. Ti piace interattività, mi Deborah? Piace molto, come autorevoleggerezza, mi piacciono molto i termini che partoriamo da qui. Noi siamo autoleggerezzamente interattivi, non so. A proposito di interazione, ricordiamo anche che nell'ultima pagina della guida al risparmio c'è anche la rubrica appunto tratta proprio dalle testimonianze che raccogliamo dalla nostra trasmissione da Due di Renari. E la rubrichina che firmiamo oggi si intitola Le punture di spillo che aggravano i costi. Sì. Quindi se siete curiosi andate a leggere anche quello che ha partorito la nostra contorta mente. Allora, prima di partire con tutto ciò però, Mauro, magari due minutini anche della rassegna stampa dei nostri temi, quelli che troviamo oggi sui giornali, perché la legge di bilancio, che a breve verrà definitivamente partorita, pertanto tu ancora non ce l'hai nel tuo formato preferito, quello cartaceo. È un minestrone, ti dico tutte le mattine. Con tutti gli ingredienti. È un minestrone, sta bollendo nel pentolone del Parlamento. Ci stanno, come dire, confezionando tanti argomenti per le prossime puntate di Due di Denari. Quello che a me piace di più è il fondo di ristoro per i clienti delle banche che hanno perso i loro risparmi con la risoluzione delle quattro banche, ma anche con le due popolari venete. Si parla di una dotazione di 50 milioni che verranno distribuiti in due anni, fra il 2018 e il 2019, e vedremo appunto come sarà confezionato questo provvedimento e soprattutto quali saranno i requisiti necessari per poter ottenere questi indennizzi previsti da questo fondo, perché è un fondo che naturalmente non basta per tutti e c'è già una clausola abbastanza particolare, perché il danno finanziario dovrà essere riconosciuto con sentenza passata in giudicato o davanti ad un arbitro finanziario, per cui già un vincolo che ovviamente limiterà la platea. Una prima barriera d'ingresso, poi non voglio fare il guastafeste. Attenzione, perché come molti provvedimenti deve essere poi attuato con una di quelle che si chiamano normative secondarie. In questo caso l'emendamento, la correzione che ancora non è operativa, la correzione prevede che venga emanato un decreto del Ministero dell'Economia entro 120 giorni, il che significa che dovremo aspettare tutto il mese di aprile 2018 per vedere il provvedimento e quindi conoscerne le linee complessive. Bene, altre notizie dalla legge di bilancio, ma questa cosa dell'INPS che magari tratteremo nei prossimi giorni, che riguarda il lavoro domestico, perché non ci è piaciuta molto questa richiesta, che ancora una volta... Ci sono due aspetti che voglio segnalare, li diciamo in breve, poi magari dedicheremo una puntata proprio sul tema colf e badanti. Allora, da una parte ci sono delle richieste dell'INPS per ricostruire oppure per assegnare, per chiedere dei contributi risalenti addirittura quasi 10 anni fa. Qui il problema, lo riferisce oggi tra gli altri il giornale, è che a un certo punto le comunicazioni di cessazione di rapporto di lavoro con una colf o una badante andavano fatte per anche alle direzioni provinciali del lavoro. C'è stata una fase nei primi anni 2000 appunto in cui c'era questo passaggio. Non tutti lo hanno fatto, non tutti lo hanno fatto correttamente, l'INPS ha degli archivi un po' in disordine, la sostanza è sono partite delle richieste. Attenzione, perché avvisa Assindatcolf che in qualche caso c'è stato l'associazione dei datori di lavoro domestico. Sì, c'è stato anche qualche furto di identità, cioè qualcuno si è ritrovato una colf o una badante che non sapeva di avere, non aveva mai visto. In realtà è la stato, badante a tua insaputa abbiamo anche. La badante a propria insaputa, ma perché, cara Debora, il problema era che magari per utilizzare un provvedimento di flussi d'ingresso, di sanatoria di chi si trova in Italia, può esserci stato anche questo caso di mala utilizzo. Ce ne occuperemo. Assolutamente, magari all'inizio della prossima settimana, perché adesso abbiamo questi due giorni interamente dedicati al risparmio. Altre notizie? Sì, perché sempre l'INPS questa mattina ha diffuso una segnalazione, perché stanno partendo anche degli avvisi di accertamento e questa è un'altra cosa, però non riguarda appunto queste cessazioni 2008-2009, ma invece gli accertamenti sul quarto trimestre 2012-2013, cioè se non vi ritrovate i bollettini, magari cercateveli, stanno partendo, così avvisa l'INPS, che comunque dice anche guardate che sui nostri avvisi di pagamento c'è anche la modalità per opporsi, per chiedere spiegazioni. Ottimo. Eccetera. Benissimo. Guardiamoci sempre dentro. Pronti a partire allora con la puntata dedicata a risparmio. Money honey. Miele per le nostre boccucce delicate. Guarda, devo dire che Giulia Lauricella e Marco Lombardo sono sempre così fantasiosi. Io avevo chiesto i chapter 11, veramente, non mi avete voluto accontentare. Ma te la mettiamo, ma no, ti accontentiamo, però volevamo mettertela a sorpresa così a metà trasmissione. Abbassiamo un pochino Peter Grazie, perché qua la spara sempre a 1000, non so, sarà sordo. Si vede che gli piace. Vabbè, allora senti, abbiamo già capito che sotto Natale, invece di leggere il romanzo che non siamo riusciti a leggere negli ultimi giorni, dovremmo dedicare del tempo alla lettura della nuova guida del Sole 24 Ore, appunto Nuovo Risparmio. Ve l'abbiamo già largamente presentata in apertura di trasmissione. 12 numeri settimanali, no, magari ricordiamo per trasparenza che non è regalata, con il quotidiano vanno aggiunti 50 centesimi, però è un piccolo investimento che magari vale la pena di fare. Beh, insomma, 50 centesimi penso che sia una spesa che potete affrontare. Assolutamente. Allora, ribongiorno ad Isabella Della Valle. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Che ne ha curata gran parte, anche perché in questo primo numero si parla di argomenti che lei conosce molto bene: l'industria del risparmio gestito, i fondi di investimento. E poi abbiamo chiesto aiuto, eccolo qua che Mauro la mette in mostra. Sì, per Facebook, a vantaggio dei social. Esatto. Salutiamo anche un altro ospite che è collegato telefonicamente con noi. Abbiamo chiesto il supporto anche ad un consulente finanziario indipendente, Fabrizio Taccuso, che salutiamo. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno Deborah, buongiorno Mauro e buongiorno agli ascoltatori. Grazie. Allora, cara Isabella, la prima domanda tutta per te. Le vie del risparmio sono infinite, per fortuna, ci sono molte opportunità naturalmente, però si possono percorrere spesso anche delle strade sbagliate. Voi ne parlate abbastanza chiaramente in questa guida. Le lezioni che abbiamo preso in questi ultimi anni sono state molte. Ne abbiamo parlato anche prima con il fondo appunto per i risparmiatori che hanno investito in obbligazioni subordinate delle banche che poi sono state risolte. Ma serve l'esperienza per fare investimenti consapevoli? Il tema consapevolezza, la parola consapevolezza, quella che tu usi largamente anche nell'introduzione che fai alla guida. Assolutamente. Quello che però distinguo che vorrei fare all'inizio è che è vero che le strade del risparmio sono infinite e qualche volta pericolose, però quelle del risparmio gestito sono più tutelate rispetto ad altre, perché acquistando prodotti gestiti tipo i fondi comuni di investimento in primis, più difficilmente si può andare incontro alle amare sorprese che purtroppo abbiamo visto hanno caratterizzato chi invece è andato ad acquistare. Perché hanno questa caratteristica della diversificazione che protegge naturalmente da tutta una serie di inciampi in cui il mercato incorre frequentemente naturalmente. Certo. Gli italiani fanno sempre gli stessi errori comunque, sì. Isabella? Sì, sì. Allora, quello che noi riscontriamo è che di solito gli investitori sono sempre molto dediti al rischio, sono sempre molto coraggiosi quando i mercati vanno bene. Questa è una cosa che, voglio dire, in quasi 30 anni, ahimè, che seguo questo settore, vedo che si ripete. Ha cominciato all'asilo, Isabella. Alla materna. Vedo che comunque la grande capacità di investimento arriva sempre quando i mercati vanno bene. Anche se c'è da dire che non sempre però questi investimenti si indirizzano poi verso quelli che possono essere gli strumenti più adatti, perché magari si tende a essere dei grandi investitori azionari quando magari appunto i mercati azionari sono già saliti tanto, rischiando quindi di arrivare anche con un certo ritardo. Infatti non vorrei mai sapere cosa potrà succedere a breve se dovesse scoppiare la bolla di cui parla anche il Sole 24 Ore sul Bitcoin, che toccato la soglia record di $10,000. Io non ho neanche idea quali siano le piattaforme da utilizzare per poter sottoscrivere questo investimento, invece a giudicare dalle quotazioni in molti qualche esperienza già la stanno facendo, Mauro. Mi sembra una cosa, uno strumento che va approcciato, che va avvicinato con molta certo. cautela. Ne parliamo, ne tra parliamo l'altro anche domani anche... nella guida che esce domani. No, nella guida che esce la settimana successiva, sì, perché tra i tanti argomenti che verranno affrontati appunto nel corso dei 12 giovedì che accompagneranno l'uscita del Sole 24 Ore, affronteremo anche la tecnologia e l'impatto della tecnologia sul risparmio, quindi affronteremo anche il Bitcoin. I lettori poi ci perdoneranno se quando usciremo giovedì della prossima settimana avremo una quotazione del Bitcoin esatto. non più adeguata, visto che viaggia a una velocità impressionante. Sì. Isabella, tu hai già evocato i fondi comuni, sì. Tu segui peraltro da molto tempo proprio quel settore del risparmio gestito, sì, dall'asilo o forse dalla prima elementare, ecco. Ci sono stati degli strumenti di successo particolare in questi anni, i fondi a cedola e i fondi cosiddetti multi-asset. Sì, sono allora, quelli che investono un pochino in tutte le asset sono class. Strumenti comunque affidabili. Qualche volta sui fondi a cedola si rischiano degli equivoci. Ne abbiamo parlato proprio a due di denari, perché a volte la cedola non ti spiegano che se non hai abbastanza guadagno non potrebbe eroderti il capitale. Certo, ecco, o se lo spiegano, diciamo che lo spiegano in maniera molto molto minima. Esatto. Ma come in tutte le cose, anche questi strumenti, l'importante è sapere che cosa uno acquista. il successo del fondo Acedola è figlio del fatto che è anche cambiato un po' l'approccio dell'investimento ultimamente, perché una volta si investiva solo ed esclusivamente per avere un rendimento, ora si investe anche per avere una rendita. Esatto, perché il BTP e diciamo non te la dà più tanto soddisfacente. È quello l'approccio che è cambiato, però per avere questa rendita, come dicevi giustamente tu Mauro, o i mercati vanno bene, quindi questa rendita arriva, questa cedola che arriva da un extra guadagno che io ho avuto, oppure visto che appunto neanche i gestori di fondi sono delle onlus. Esatto. Qualche cosa da qualche parte bisogna trovarli. Diciamo che questo è scritto, cioè non è una sorpresa. Nei prospetti queste cose qua sono scritte, quindi prima di acquistare, perché magari io posso dire va bene, mi può anche star bene che nel caso in cui il mercato non vada bene possa essere anche roso il mio capitale, ma io lo devo sapere. Certo. Cioè non devo avere poi la sorpresa di dire ah, ma non me l'avevano detto, o comunque non l'avevo visto. Capito, esatto. Questa è la cosa importante. E allora io vorrei proprio chiamare in causa Fabrizio Taccuso, perché mi sembra che la consapevolezza, quella a cui facenno appunto Isabella, sia un po' la chiave per, non dico evitare tutte le scottature, perché questo è impossibile nella vita, però quantomeno per preventivare o evitare dei comportamenti troppo rischiosi. Com'è possibile far diventare un risparmiatore consapevole, Taccuso? Ma l'investitore consapevole, secondo me, innanzitutto è un investitore che conosce se stesso, quindi conosce le proprie paure e sa perché sta facendo un determinato investimento, quindi sa quali sono le aspettative a cui può andare incontro, e in questo senso credo che i consulenti bravi possono fare la differenza, nel senso che il consulente io lo intendo anche un po' come un coach che fa ragionare il cliente e cercando di capire perché sta investendo e facendolo ragionare per obiettivi. Quindi la consapevolezza è sapere perché stai facendo una determinata cosa e cosa ti puoi aspettare. Ecco, ma la consulenza spesso, e ci capita anche qui a Due di Denari rispetto alle SMS, al WhatsApp che riceviamo, alle telefonate, la consulenza ha un costo. A volte, e l'abbiamo detto, l'ha scritto anche Plus da ultimo sabato scorso, ma ce ne siamo occupati spesso, a volte questi costi non sono molto definiti, molto dichiarati in modo trasparente. Però a volte, insomma, c'è anche un po' di mentalità di noi risparmiatori che malamente ci approcciamo a questa cosa dei costi. Quasi perché che siamo stati abituati ad andare in banca laddove effettivamente, concretamente, la consulenza non la paghi, perché fino a quando tu sottoscrivi un titolo di Stato o poco altro è ovvio che per quel tipo quella non è consulenza, è una intermediazione e basta, no? Di conseguenza, non pagandola non capisci neanche che è un servizio che poi, se lo rendi un po' più sofisticato, diventa anche più costoso. Certamente. Ecco, arriverà la MiFID 2, già l'ha ricordata Deborah, arriverà dal 2018, quindi oramai siamo agli sgoccioli, tutto diventerà più trasparente, è vero Taccuso? Oppure vediamo. Diciamo che l'obiettivo è quello, relativamente al discorso costi, diciamo che noi consulenti indipendenti è il focus su cui poniamo più l'attenzione. Nel senso che nel momento in cui abbiamo il primo contatto con un potenziale cliente, una delle cose che noi facciamo è proprio quello di renderlo consapevole, nel senso di fare un'analisi di quello che lui ha in portafoglio, nella globalità ma anche sui singoli strumenti, e molto spesso noi vediamo che il cliente non sa perché ha fatto un investimento e non sa neanche che cosa si può aspettare. Quindi facendo quello che io in gergo chiamo check-up, che poi è un'analisi gratuita, si riesce a rendere, come dicevate prima voi, il cliente consapevole e soprattutto si può anche quantificare in maniera oggettiva, visto che il nostro lavoro è basato sui numeri, quelli che sono i costi, perché il cliente, e questa è un'altra cosa che voi avete detto poco fa bene, crede di andare in banca e di non pagare. In realtà molto spesso all'interno dei prodotti ha sottoscritto prodotti poco efficienti, dove ha quella che noi chiamiamo la parcella occulta, cioè una serie di costi. E molto spesso quando noi li quantifichiamo il cliente, diciamo che rimane pietrificato, perché sono molto più alti di quelli che crede, magari ha qualche vaga idea, ma molto spesso non è consapevole. Certo. E quindi diciamo costi che non rendono efficiente il prodotto di investimento, la soluzione di investimento che si è prescelta. Detto questo, Taccuso, magari lo chiedo anche ad Isabella, stiamo anche molto attenti a non far passare il messaggio che appunto ci siano dei pasti gratis in questo campo, perché non ce ne sono, perché anche la consulenza indipendente, giustamente, no, Taccuso, mi farà piacere se lei lo volesse ricordare, non è che sia fatta gratuita, esatto, no, pro bono. Che dice? La consulenza indipendente non è certamente gratuita. Quello che però emerge da statistiche ufficiali, che non siamo noi che le pubblichiamo, è che mediamente un cliente lascia, diciamo, a livello di commissione di gestione annua tra il 2,5% e il 3% all'anno. La consulenza indipendente, e questo la voglio sottolineare, è sempre molto, molto inferiore a questi costi. Per cui è vero che il cliente paga, ma paga qualcosa che ha ben identificato all'inizio, certo. Per cui sa già diciamo quanto paga, e soprattutto diciamo che noi facciamo un percorso insieme al cliente e non abbiamo conflitti di interesse, nel senso che consigliamo poi al cliente quello che è meglio per lui, diciamo, partendo che il dai suoi obiettivi. Il vostro valore è quello, che non avete nessuno che vi spinge alle spalle, naturalmente, per collocare un prodotto rispetto ad un altro. Devo dire che poi non tutte le reti di distribuzione, Isabella, hanno questa pressione. C'è ancora molto mal di budget, perché voi su Plus24 sì. questo fenomeno lo rincorrete ancora sì. con forte accanimento, giustamente. Detto anche questo, c'è un altro aspetto, che è la consulenza indipendente, ma questo poi sarà l'argomento di una puntata dedicata solo alla consulenza. Oggi stiamo sulle soluzioni di investimento, ma magari un commento vale la pena farlo. Ancora si rivolge a portafogli molto elevati. Per profili di risparmiatore più piccoli, di un certo livello, la consulenza indipendente oggi non è accessibile, perché questo va detto. Anche, poi c'è anche da aggiungere una cosa. C'è un livello di concorrenza ormai che è veramente molto molto elevato, perché è vero quello che diceva Fabrizio prima, perché comunque un investitore, magari purché sia consapevole del servizio che gli viene dato, e se è contento del servizio magari che gli viene dato, magari pagarlo, è anche contento, certo, di pagarlo, perché no? Il problema è quando tu le cose non le sai, magari paghi per un servizio che credi di avere e che poi in realtà non hai. Questo è il vero punto. Sì, ma infatti poi anche lo spirito per cui abbiamo un po' avviato questa iniziativa del nuovo risparmio è anche quella di invitare tutti quanti, me per primo lo dico, a riflettere un po' di più. Alle volte si fanno delle scelte di investimento così istintive e non solo non consapevoli, Isabella, ma proprio così sul momento uno non sa neanche bene che cosa, dove ha messo i soldi. Questo effettivamente, vista la fatica che si fa a guadagnarli, è un po' un comportamento scorretto. Allora sì, no, prima del mio appuntamento, del mio momento di gloria, volevo solamente salutare Rina, un'ascoltatrice che ci ha mandato un paio di messaggi, perché dice: io voglio risparmiare sulle utenze domestiche, purtroppo qua non c'è santo e consulente che tenga, o spegniamo tutti gli interruttori della luce o non so che cosa. Ma Rina, purtroppo tra le varie guide del nuovo risparmio una dedicata a questo argomento non c'è. C'è la casa e il mutuo, c'è la gestione dell'auto, c'è come scegliere le assicurazioni, come, diciamo, temi alternativi all'investimento. Sarà uno spunto per una delle prossime guide che faremo. Questo sì, perché è vero, il problema è molto sentito. Assolutamente. Sul lunedì viene affrontato tante volte anche questo tipo di C'è per caso un altro ascoltatore, una guida sulle utenze domestiche, le cerchiamo qualcosa, poi magari gliele mandiamo. Assolutamente. Volentieri, ma adesso Debora, le borse. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di denari. Il mio bancario è un consulente. Lui mi risponde di domenica. Risolve tutti i miei problemi senza neanche far la predica. Io mi chiedo come tu possa considerarti credibile quando pontifichi sui temi fiscali e di risparmio e poi mi spari la tua canzone. Sì, devo dire, un po' un momento di self-branding, ho imparato a dire questa cosa. Ma con autorevole leggerezza. Con autorevole leggerezza, no, avevo chiesto appunto i Chapter 11, noi abbiamo una canzone che si chiama Il Consulente e quindi la eseguiamo spesso nei nostri concerti che facciamo per beneficenza. È che me li offendi, sai che sono dei nostri grandi fan e ascoltatori, per guarda, cui non è che li voglio. Se si offendono, diciamo, fanno un po' due fatiche, perché dai, insomma, ci divertiamo, siamo un po' leggeri. Tra l'altro, adesso abbiamo due consulenti non al prezzo di uno, sono due al prezzo di due. E allora salutiamo anche Marcello Rubiu, che è partner di Norisk. Buongiorno. Sì, società buongiorno. Di consulenza finanziaria indipendente che si è sbizzarrita per conto di Plus 24 del Sole 24 Ore nell'elaborazione di un'analisi su una tipologia molto speciale di fondi di investimento, quelli obbligazionari. Perché hanno analizzato proprio questi? Perché naturalmente, come sapete, il segmento obbligazionario da qualche tempo a questa parte non rende praticamente quasi più nulla, i titoli di Stato sono sotto zero da un bel po', per cui anche comporre ed elaborare, costruire un fondo di investimento di natura obbligazionaria che faccia guadagnare un po' al sottoscrittore è già un'impresa ardua. Se poi ci applichiamo naturalmente anche i costi Rubio, qua scopriamo un bel po' di sorprese. Allora, senza fare nomi e cognomi, tanto possono andare i nostri amici ascoltatori possono andare a ritrovare il pezzo di Plus 24. Che cosa avete scoperto indagando in questo mondo? Ma queste sono delle indagini che con Plus stiamo facendo in pratica ogni mese e andiamo ad analizzare varie categorie dei fondi, focalizzandoci soprattutto sull'aspetto che ci sono dei costi e a questi costi ci devono essere appunto collegati dei rendimenti. Dei rendimenti che devono essere corretti per il rischio superiori a quelli ottenibili con un ETF, cioè fermandosi alla replica di mercato. E quello che emerge da questa analisi che abbiamo fatto sulla categoria degli obbligazionari è una categoria particolare, perché di fatto si dà ampio mandato al gestore per investire non solamente sui titoli di Stato, ma persino sulle obbligazioni societarie. Esatto, societarie, paesi emergenti. Bisogna vedere se questa delega di gestione piuttosto ampia avesse prodotto dei risultati accettabili, considerando anche i costi. E purtroppo buona parte dei fondi analizzati non riesce a passare, a superare l'asticella degli ETF. Peraltro evidentemente hanno una differenza di costi molto ampia, troppo ampia. Quante voci di costo avete analizzato? Quali tipologie, Rubio? Noi abbiamo considerato tutti i costi collegati ai fondi e collegati anche agli investimenti in ETF, perché non ricordiamoci che anche acquistare un ETF quotato comporta dei costi, e considerando tutto, le spese diciamo di gestione, quella amministrativa, abbiamo ottenuto che di fatto molto spesso queste commissioni non sono così meritate, ecco, sono troppo elevate, soprattutto perché poi bisogna considerare che buona parte del costo di un fondo non viene incamerato dalla società di gestione, ma viene incamerato dall'intermediario, dal che distribuisce naturalmente, che dovrebbe però fare anche consulenze e magari viene remunerato anche per quello. Senta Rubio, sta utilizzando per caso un viva voce? No. Ah no, allora, perché la sentiamo un pochino ovattata, allora evidentemente è colpa delle nostre linee. Hai qualche curiosità, Mauro, sul tema dei costi dei fondi comuni? Qualche centinaio, perché come molti, moltissimi italiani, anche io sono attratto sempre dalla semplicità un po' dello strumento, e tra l'altro uno strumento che è un tipo di fondo comune che è andato molto in auge in questi anni è l'ETF cosiddetto. Allora, Isabella, mi ricordi un attimo, e ricordi anche gli ascoltatori che roba è? Allora, l'ETF è sostanzialmente quello che viene comunemente definito un fondo a gestione passiva. E, dovrebbe, allora, quantomeno all'inizio replicava quello che era l'andamento di un indice. Quando sono nati erano veramente semplici. Diciamo che con l'andare avanti del tempo c'è stata una forte evoluzione anche all'interno di questi prodotti, quindi se sono nati come prodotti molto semplici, poi si sono un po' complicati, adesso replicano l'impossibile. Possono essere replica fisica, replica sintetica, possono replicare semplicemente un indice, un paniere di titoli, insomma adesso replicano anche i peer, e io mi ricordo che al Salone del Risparmio di aprile mi ero anche un pochino indispettita con qualche intermediario, perché non erano neanche partiti PIR da un mese e già sul mercato venivano proposte le soluzioni ETF sui PIR. E anche adesso diciamo che ci sono un sacco di ETF che seguono delle tematiche molto in voga, come la robotica, ma gli stessi Bitcoin, insomma sono molto sul pezzo. Ne ho visto uno anche sulla diversità di genere, qualcosa. Sì, ma qualunque cosa. Ecco, il grande vantaggio dell'ETF rispetto al fondo comune è chiaramente il costo, perché ovviamente il costo di gestione non che c'è. Viene certo, non e c'è quindi un gestore. Sono anche prodotti che soprattutto all'inizio venivano come dire, non venivano propriamente proposti in grande stile da parte dell'intermediario, anche perché i margini che si potevano fare con questi strumenti erano veramente ridotti. Infatti sono strumenti che invece vengono suggeriti particolarmente dalla consulenza indipendente, poi magari a Tacuso faccio fare un commento su questo, però ci mettiamo anche l'ascoltatore. Ma certo, ascoltiamo Giovanni da Roma che ci ha chiamato per segnalare un aspetto che fin qui non abbiamo trattato. Buongiorno Giovanni. Allora, buongiorno, pronto, mi sentite? Certo. Scusate, ma siccome sto poco bene, allora io sono un vecchio del settore che vengo dalle grida di borsa, poi ho avuto l'esperienza come revisore e poi ho fatto l'esame di questo, sono un plurilaureato. Sì. Però l'esperienza è questa, i costi ci sono sempre, gli eventuali utili molto difficili, in più il signor Monti a cui mandiamo tutte le nostre benedizioni ha avuto l'idea di aumentare la tassazione su qualcosa che è stato già tassato in ingresso, perché si presume che il risparmio venga tassato quando uno lo accumula, se no ha evaso le tasse. Tenga conto che sono un ex ufficiale della Guardia di Finanza, quindi ho avuto... Fatto tutto lei Giovanni nella vita, accidenti, che esperienza. Però l'esperienza, guardi, poi il padre eterno mi ha dato la più grande tragedia che un uomo possa, perché mi hanno ammazzato un figlio bruciato vivo dentro un mezzo, e quindi è molto difficile. Comunque faccio gli auguri a tutti i risparmiatori che sono la struttura portante del sistema, perché il reddito va a finire in consumo e in investimenti, e per riprodurre il reddito bisogna che ci siano gli investimenti. Gli investimenti finanziari sono un servizio ed è diventato talmente complesso per gli 8.000 passa posizionamenti dei fondi comuni, che sono uno strumento meraviglioso in linea teorica per il principio base di tutti gli investimenti e la diversificazione. Assolutamente. Non mettere tutte le uova nello stesso maniera. Io sono stato anche presidente della compagnia immobiliare e lì è lo stesso in investimento. Lo Stato però anche lì ha quadruplicato le imposte fisse, perché l'IMU è questo. E sa Giovanni com'è, lì a un certo punto o si faceva una bella patrimoniale in un momento di crisi recente particolarmente dura, oppure la si è fatta, diciamo, in maniera un po' più elegante. Si è parcellizzata. Esatto, no, il tema è che poi ad un certo punto si è intervenuti anche sulla rimodulazione della tassazione sui fondi pensione, quello sì che è stato grave, poi sugli altri strumenti di investimento. Se i costi fossero un po' più leggeri, magari ecco, anche quello uno non la vedrebbe. Mauro? No. Volevo dire che questo aspetto della tassazione sarà proprio oggetto di una delle uscite della guida Nuovo certo. Risparmio, quindi anche per capire, per orientarsi, è abbastanza semplice ma non così semplice, vi posso dare questa quanto indicazione. Pesa il fisco, esce il 18 gennaio, guarda, se volete te lo dico segnarlo già. Già da oggi. E poi volevo dirti, cara Deborah, che è il momento il momento del traffico. Di denari. Allora, l'indagine di No Risk sarà stata musica per le orecchie di Fabrizio Taccuso, no? Perché ovviamente sull'aspetto dei costi voi provate a fare molta operazione di informazione alla vostra clientela, soprattutto quando questi clienti, queste persone, queste famiglie, queste imprese hanno in portafoglio prodotti non efficienti su cui grava l'aspetto dei costi in maniera considerevole. Ma come quanto tempo perde lei, Taccuso? Perde, non è tempo perso naturalmente, o spende per spiegare il tema costi ai suoi clienti, per l'appunto. Come si fa anche a capire effettivamente, analizzando il prospetto informativo di un progetto di un investimento, di un prodotto di investimento, a capire quanto ci costa, come dovremo fare il conteggio di questo aspetto quando faremo una rendicontazione? Non è proprio un tema semplice da affrontare. Non è un tema semplice sicuramente, ma il vantaggio del nostro mestiere è che si basa sui numeri, per cui i numeri sono oggettivi e quindi diciamo che soprattutto nella prima occasione in cui vedo il cliente, ma anche nelle occasioni successive, come dicevo prima, l'enfasi è posta soprattutto sull'analisi di quello che uno ha e sull'andamento, diciamo, passato, per cui chiaramente attraverso piattaforme o software che noi consulenti indipendenti utilizziamo abbiamo modo di verificare l'andamento passato e i costi che sostiene il cliente sui prodotti che ha in portafoglio. Secondo me, aggiungo un discorso che secondo me è importante rilevare, in una fase caratterizzata ormai da anni da tassi zero, l'elemento costi è preponderante, cioè se noi abbiamo uno strumento inefficiente con i tassi a zero e noi abbiamo oggi delle asset class, basti pensare a tutto il settore monetario obbligazionario, è fondamentale avere uno strumento pratico ed efficiente come l'ETF, perché molte volte si sa già che investendo in un fondo obbligazionario, una gestione obbligazionaria, la partita è persa in partenza perché i costi annullano le aspettative di rendimento. Quindi è vero che è un cavallo di battaglia nostro, ma oggettivamente è importante valutare i costi con i tassi a zero. Ma dottor Taccuso, vanno bene proprio per tutti gli ETF? Cioè li consiglierebbe indiscriminatamente o no? Beh, diciamo che da quando sono nati nel 2002, che sono stati quotati a Borsa Italiana i primi tre ETF, diceva era sull'S&P 40, mi ricordo che avevo portato a Salvadanaio Raffaele Ierusalmi, che non era ancora amministratore delegato di Borsa, ma già gestiva appunto il lancio di queste novità sul mercato, almeno per l'epoca. Sì. E diciamo che poi c'è stata un'evoluzione, oggi ci sono un migliaio di ETF quotati in Borsa Italiana con le strategie, l'avete accennato voi, più disparate. Secondo me le ETF hanno alcune caratteristiche tali da adattarsi a tutti, quantomeno i risparmiatori. E la prima, secondo me, è la diversificazione, perché se io compro un ETF che investe sulla Borsa Italiana, quantomeno assolvo il primo obiettivo o regola che ogni investitore dovrebbe osservare, che è quella della diversificazione. Per cui certamente forse non raddoppierò mai il capitale, ma rischio chiaramente, ma evito di perdere tutto investendo in un solo titolo. Però se il mercato, se il mercato obbligazionario perde molto, l'ETF va a traino e perde moltissimo, e il risparmiatore magari perde molto di più rispetto a quanto non possa succedere con un fondo investito sul mercato obbligazionario, che magari qualche perdita l'argina o no. Faccio un po' di difesa dell'industria del risparmio, certo, gestito. Giusto, ma diciamo che gli ETF consentono di diversificare in diversi segmenti dell'obbligazionario, per cui per esempio se i tassi dovessero andare su ci sono anche gli ETF che beneficiano del rialzo dei tassi, quindi dire ETF è un po' troppo riduttivo, perché nel momento in cui noi abbiamo un migliaio di ETF abbiamo un sacco di strategie, possono andare a leva, possono andare a ribasso. Secondo me il vantaggio è, alcuni vantaggi sono da sintetizzare, sono la diversificazione, il fatto che sia trasparente, per cui io ho uno strumento quotato tutti i giorni dalle 9 alle 17.30, per cui posso controllare il prezzo, e poi è efficiente perché mi replica, diciamo, un mercato di riferimento, un benchmark, per cui se vado sulla borsa cinese ho un ETF Cina, so che cosa mi posso aspettare. Poi è chiaro, e vengo alla sua domanda, che va bene per tutti, sì, è chiaro che i portafogli più complessi devono essere integrati con altri strumenti, per esempio l'ETF ha secondo me un inconveniente, che è la fiscalità, cioè un portafoglio composto solo da ETF ha ad esempio la problematica che tutte le volte che guadagno mi tassano sul capital gain, tutte le volte che perdo non posso recuperarle, quindi nemmeno noi consulenti indipendenti componiamo un portafoglio esclusivamente con ETF, ma può rappresentare anche per piccoli risparmiatori, diciamo, l'ossatura del portafoglio. Allora, se mi permette, aggiungo una cosa solo, diciamo che il consulente indipendente non è solo per grossi patrimoni, perché può essere utile, mi permetto, prendo uno spazio velocissimo, anche di fare analisi, diciamo, una tantum su singoli strumenti, per cui possiamo comunque essere utili anche a piccoli risparmiatori nella, non so, ad esempio nel fondo pensione, dove non è bisogno di essere un investitore da un milione di euro, anzi, secondo me è una cosa imprescindibile oggi il fondo pensione, e quindi possiamo essere utili anche a piccoli risparmiatori. Allora, lei ha evocato la fiscalità, che peraltro è già stata evocata dal nostro ascoltatore. Isabella, nel primo numero di questa collana del Nuovo Risparmio parliamo dei PIR, che hanno avuto gran successo proprio perché c'è lo sconto fiscale, tema, diciamolo. Esatto. Diciamo che è stata una leva molto forte per far sì che questi prodotti, che sono stati lanciati a gennaio del 2017, la raccolta sia già arrivata a 8 miliardi, quindi voglio dire tantissimi, sì, tantissimi soldi. Ben oltre le aspettative Sì. Veramente è stato un boom, e la grande leva è stata proprio quella di dell'esenzione fiscale, cioè chi sottoscrive un PIR a patto appunto che rispetti determinate condizioni, quindi sia investito per 5 anni con dei limiti anche di investimento che al momento sono 30.000 euro all'anno, ma è anche possibile che questa soglia allo studio potrebbe anche essere potrebbe salire fino a un massimo di 150.000 euro, però appunto il fatto che, come già sottolineavano anche prima, i rendimenti siano così risicati, se non c'è la spada del fisco, beh, chiaramente è un grande vantaggio. Allora, abbiamo, cara Deborah, ancora diciamo due minuti scarsi. Sentiamo Marco da Verona, va, che cosa sta combinando. Marco, velocissimo, grazie. Sì, buongiorno. Io tante volte sono andato in banca nell'arco degli anni, ho 50 anni, chiedendo quello che volevo fare, azionari, rischio, alto rischio, tutto quanto. Non me l'hanno mai permesso. Ultimamente mi sono andato alle criptovalute, sto triplicando e quindi col petrolio comunque sto triplicando e faccio quello che dico io, i soldi sono miei, me li gioco ma io. Ma lei, per carità, Marco, ma certamente è sacrosanto il suo ragionamento. Detto questo, se scoppia questa bolla poi magari perde tutto, dopo però chiedete l'aiuto del governo che si attivi con dei fondi che vadano ad indennizzare le vittime polemica, dei crack. Debola, sì, però, su questi atteggiamenti qua. Detto questo, Marco, però, se è consapevole di quello che fa. Certamente. No, poi ci arrabbiamo con le banche che fanno la riprofilatura MiFID per fare investimenti rischiosi ai clienti. Ecco, ma infatti forse questa è proprio la sottolineatura finale che possiamo dare in questa puntata. Cioè, ricordiamoci che alla fine i soldi che noi mettiamo in un investimento sono i nostri soldi. Certo. Dobbiamo essere informati, se non capiamo qualcosa dobbiamo chiederlo, se non lo capiamo la prima risposta facciamo un'altra domanda. Posso aggiungere una cosa? Noi facciamo queste iniziative proprio per dare la possibilità al risparmiatore di sapere anche che cosa chiedere, perché il grande problema è che tante volte se uno non capisce non osa chiedere. Non osare chiedere è il primo passo per sbagliare un investimento. Certo, bene. Grazie allora Isabella. Torniamo su questi argomenti domani con Investire Informati, naturalmente, quindi a tutti buon pomeriggio. Abbiamo anche 3 secondi di tempo per salutare il nostro staff, ci vuoi pensare tu? Ma certo, allora grazie a Peter Bescapè questa mattina in regia e grazie come sempre a Giulia Lauricella e Marco Lombardo. Due di Denari torna domani, stessa ora, stesso canale. Buona giornata.